Signore, le tue vene già vuote chiedan di poco amore momentaneo ristoro. E il barbaro Israele, bevando soldi fieli, ti porse. Io lo rammento, ai popolo crudele, popolo ingrato, che per te già disciolse duri bacini, in liquidi torrenti di purissimi argenti, poche stille ti chiede. Tu li dai mercede un sì amaro liquore, e nel rammentarlo non si spezza il cuore. O crudi rimembranze, o funeste memorie, tormentatemi pure. Sì, sì, seguite ad accrescervi il duomo. E di tormento, che bell'angoscia ria, io vado ancora, sollievo ancora io sento. Se col pensiero afflitto fa lusinganno almeno il mio desire, averne seno qualche martir il mio Gesù trafitto. Se nell'afflitta mente o l'io Gesù presente, i benché sangui d'impiagare